Ciao Flavia, è così dolce la sofferenza che mi porto in cuore che io vivo felice per una bellezza crudele. Nel cielo di bellezza s'accresce, diventa più grande, cioè la fierezza, e manca la pietà, sempre come uno scoglio che resiste all'orgoglio delle onde che vi si infrangono, sarà la mia fiducia nell'amore probabilmente e nella corrispondenza, nella risposta dunque, che il sentimento della persona che così si esprime, ecco, otterrà da parte della persona amata. Seconda strofa, la speranza che è fallace, cioè che non sempre porta e produce il risultato sperato, mi rivolga il suo passo, si volti dunque verso di me. Non vengano verso di me piacere e neppure pace. E quella spietata, ecco, se vogliamo parlare di una donna dunque, no? Sarebbe Elempia che adoro. Allora, e la spietata che io adoro continui pure a negarmi soddisfazione, la soddisfazione meglio, della sua corrispondenza di sentimenti, cioè del ricambio dunque, no? Dei miei sentimenti nei suoi confronti. Ciò nonostante, questo lo inserisco io, la mia fiducia, che sarebbe la mia fede in lei, nell'amore che ho per questa donna, vivrà, anche se tra dolori infiniti, e in mezzo a una speranza che è già stata da lei tradita, con un altro ovviamente. Io non ho riposo, non ho pace, in mezzo al fuoco, e cioè al caldo, e neanche in mezzo al freddo, al gelo. Avrò riposo soltanto quando sarò morto, quando sarò nell'aldilà. Se il cuore mi fu ferito, mi fu lacerato con una freccia di bronzo, una freccia, un dardo, diciamo, no? Dalla punta di ferro, possiamo ipotizzare, io cambierò la mia sorte sanando dunque il mio cuore, risanando il mio cuore con la freccia della morte. Ultima strofa, se quel cuore così freddo è il cuore della donna di cui lui è innamorato, no? Non sentì mai la fiamma dell'amore che invece ha rapito il mio cuore, se la donna di selvaggia bellezza che l'anima mia ha rapito, ha sedotto, mi nega la sua pietà, ecco, le auguro che capiti anche a lei di restare completamente immersa nel dolore e pentita per il male che ha voluto farmi e languente anche nel corpo, cioè senza forze, che sospiri un giorno di potermi riavere come amante. Spero di averti aiutata. Ciao, ciao Flavia.